Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Il fallimento di Citigroup, che non è Citigroup ma è un altro tipo di società. Comunque, oggi chiesto il cosiddetto Chapter 11, quindi l'amministrazione controllata, il fallimento di fatto per una società il cui fallimento vale 71 miliardi di dollari in America e aveva ricevuto aiuti per 2 miliardi e mezzo, poco meno, dal governo americano. Non siamo a una cifra stratosferica, per fortuna, come quella di Lehman Brothers, 690 miliardi di dollari, o di Washington Mutual, 330 miliardi di dollari, però insomma, è sempre il quinto fallimento più grande nella storia americana. Più grande, va detto, di quello della Enron, che a suo tempo ne valeva 65 di miliardi di dollari. Per cui sempre di una cosa seria stiamo parlando, e soprattutto poi arrivano, come ha scritto anche il Sole 24 Ore, timori che vi siano altri prodotti tossici, altre cartaccia dopo il ciclone del subprime, 11.000 miliardi di mutui a rischio. Questo si teme che possa essere ancora quello che circola negli Stati Uniti. Va detto che di fronte a queste preoccupazioni, però, oggi la borsa, sia in America e anche in Europa, è tutta positiva. In America guadagnano 0,90%, in Europa la miglior piazza è Milano, più 1%, poi segue Londra, più 0,90%, Francoforte più 0,1%, Parigi più 0,7% e Francoforte appunto più 0,1%. In una giornata in cui l'euro ha quota 1,48 e in cui va molto bene Telecom Italia oggi in borsa, più 3,5%, Tenaris anch'essa, Fiat più 2,6%, nel giorno in cui usciranno tra poco meno di un'ora i dati sulle matricolazioni di auto nel mese di ottobre e ancora nel giorno in cui Ford torna all'utile, quindi dovrebbe essersi salvata, e anche di questo parleremo. Fiat più 2,7, dicevo, Enel più 2,5 in pregiro, più 1,8 come Unicredit, 1,5 in rialzo di Atlantia, Eni e Buzzi Unice, ma anche delle CIR e di Finmeccanica. L'1,1 è quello di Autogrill, Luxottica, l'1% quello della Popolare di Milano. Fronte opposto, l'Automatica perde il 2,80, Mediolanum il 2,3 come Parmalat, l'1,5 lo perde Geox, l'1% Snam, lo 0,70 è il calo di Mediaset, lo 0,4 quello di Terna. Parleremo quindi dei conti dei gruppi americani, partendo appunto dall'ex colosso del credito alle piccole e medie imprese. Questo era Citigroup, ripeto, chi scrive non è Citigroup, la pronuncia può in generale così, confusione, ma è un gruppo che si occupava, era il numero uno del credito proprio alle piccole e medie imprese, aveva 4.500 dipendenti, soprattutto ha visto debiti per 65 miliardi e 71 miliardi di asset, di partecipazioni, andare in fumo, ed è la prima perdita del tesoro americano nell'ambito dei programmi di salvataggio, cioè dove il tesoro ha messo i soldi. Parleremo di questo, parleremo chiaramente anche del dato sulle matricolazioni auto e poi parleremo dello scontro tra Svizzera e Italia, perché avremo come ospite il direttore delle banche del Ticino, e per capire che cosa stia irritando in maniera così forte, visto oggi la presa di posizione che è arrivata anche da Berna, il governo svizzero nell'atteggiamento italiano, che cosa c'è sotto, perché insomma è chiaro che anche l'Italia ha tutti i diritti di controllare chi attraversa la frontiera, eventualmente prendere tutte le misure che ritiene per controllare i cittadini italiani che si recano in Svizzera. Per cui, insomma. E poi sullo sfondo c'è la doppia imposizione fiscale, ma anche e soprattutto lo scudo. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il petrolio siamo a 77 dollari al barile. Putin oggi invece, quindi il primo ministro russo Vladimir Putin, è tornato ad avvertire l'Europa di una possibile interruzione delle forniture di gas a causa dei problemi per i pagamenti, di nuovo con il principale paese di transito, quindi l'Ucraina, e ha chiesto anche all'Unione Europea di aiutare Kiev a pagare. Ha detto infatti Putin: se necessario chiediamo ai partner europei di partecipare e concedere le opportune risorse finanziarie sotto forma di crediti all'Ucraina. Richiesta, per carità, importante, ma anche un po' singolare, perché insomma dovrebbe essere l'Unione Europea a farsi carico dei crediti che l'Ucraina versa e dei debiti che l'Ucraina ha verso la Russia per permettere poi alla Russia di venderci il nostro gas. Comunque andiamo avanti. In America l'indice manifatturiero sale a 55 punti, meglio delle attese, e soprattutto quindi arriva un attivo per la Ford, che ricorderete con General Motors e Chrysler era il gruppo automobilistico a rischio. Ebbene, i giganti Detroit è l'unico dei tre grandi che ha evitato la bancarotta pilotata, e comunque dovrebbe averla evitata per un bel po', visto che il bilancio trimestrale si è chiuso con un utile di quasi un miliardo di dollari, 997 milioni, contro un rosso di 160 milioni dell'anno prima. Ne parleremo più avanti. L'amministratore delegato Alan Mulley ha detto che per il 2011 si aspetta utili molto solidi. Bene i dati che sono arrivati dalla Francia intanto sulle immatricolazioni: più 20% al mercato ad ottobre. Il gruppo Fiat ha fatto un più 13,3% a livello di gruppo e più 18% come singolo marchio Fiat. Una notizia a cavallo tra economia e sport: Bridgestone, il colosso nipponico che produce pneumatici, ha annunciato che non parteciperà più alla Formula 1 nel 2010 a causa della situazione economica e finanziaria in cui versa il gruppo. Non firmerà quindi la nuova fornitura di pneumatici per il campionato del mondo di Formula 1 della FIA. Il contratto è in scadenza alla fine della stagione 2010. Dicevamo della borsa, però oggi si è temuto un po' per il tonfo di Royal Bank of Scotland, che potrebbe essere obbligata dall'Unione Europea a cedere un numero di asset di partecipazione superiore a quello programmato dalla banca per non violare le norme sulla concorrenza. E il governo britannico tra l'altro controlla già una quota del 70% di Royal Bank of Scotland. Se l'hai comprata, se l'hai nazionalizzata, e bisogna capire che cosa deciderà poi l'Unione Europea. Sempre a proposito del mondo bancario, in questo caso britannico, il numero uno di Virgin, Richard Branson, ha annunciato che nel 2010 debutterà nel mondo delle banche e guarda con interesse alle partecipazioni che devono essere messe in vendita dei tre colossi inglesi, ossia Northern Rock, Royal Bank of Scotland e i Lloyds. Allora, questo è il panorama complessivo. Adesso partiamo con il primo tema. Non è Citigroup, attenzione, è Citigroup, colosso del credito alle piccole e medie imprese, la società che oggi ha dichiarato il fallimento, ed è il quinto fallimento più grande nella storia americana. Allora, aveva ricevuto 2 miliardi e mezzo di dollari Citigroup e non li potrà ridare al governo americano, che appunto registra la prima perdita nell'ambito dei programmi di salvataggio adottati. Ricordo che dello scorso anno il tesoro americano ha investito circa 400 miliardi di dollari in diverse società, dalle case automobilistiche alle banche, alle compagnie assicurative. Alcune hanno già iniziato a restituire i soldi, come Goldman Sachs, che sono stati 115 i fallimenti bancari di banche piccole, a parte Lehman, negli Stati Uniti, che è comunque il livello più alto dal 1992, e vediamo di capire che cosa e come si è arrivati a questo fallimento, che ripeto, non è paragonabile per fortuna a quello di Lehman Brothers, valeva 10 volte di più, 700 miliardi di dollari, ma è comunque il quinto in ordine di grandezza nella storia americana, ed è più grande anche di quello della Enron, che allora fece molto scalpore. Mario Pratero è in collegamento con noi da New York, dove è corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera, buonasera. Sì, in effetti, direi che questo fallimento, spieghiamo bene poi perché si tratta di un'amministrazione controllata, certo. Non è paragonabile a un fallimento Lehman, fra virgolette, perché Lehman così fu in effetti liquidata a tutti gli effetti. Qui la CIT per ora entra, la dico all'italiano, sia IT, ma comunque la CIT entra in amministrazione controllata nel Chapter 11 con l'idea che possa per la fine dell'anno riemergere con un modello d'affari che possa funzionare bene. Ecco, purtroppo sarà un modello costoso perché oggi per esempio la CIT ha una trentina di miliardi di dollari in debito obbligazionario e l'idea è di eliminarne 10 miliardi, deve ridurre enormemente questa cifra, quindi si tratterà, immagino, di negoziare delle perdite da parte dei bondholder. Il primo, come tu stesso hai ricordato, Sebastiano, è il Tesoro americano che perde 2,3 miliardi di dollari, ma questa azienda va in qualche modo salvata e riorganizzata perché svolge un ruolo importante, un ruolo d'appoggio di erogazione del credito alle piccole e medie aziende, ha attività di bilancio per 71 miliardi di dollari, almeno questo è quello che è stato registrato nel tribunale fallimentare e per ora c'è un prestito di altri 4 miliardi di dollari che comunque le consente di poter continuare ad operare. Ma l'elemento secondo me di interesse in questa storia di oggi, o meglio di ieri, perché poi la procedura fallimentare è stata già annunciata ieri, è che ci troviamo davanti a un momento molto delicato per il Tesoro americano. Il Tesoro per la prima volta perde in termini concreti del denaro che aveva dato in salvataggio per aiutare un'azienda a uscire dalle difficoltà, tu stesso l'hai ricordato, 2,3 miliardi di dollari. Il Tesoro oggi si ritrova con una documentazione così piuttosto delicata che giunge, guarda caso, di nuovo da Goldman Sachs che vorrebbe riscattare dei crediti fiscali di Fannie Mae e in questo modo restituire liquidità al colosso che specializzato in erogazione del credito immobiliare, ha bisogno di liquidità. Però se davvero questa operazione, che è piuttosto complessa, va in porto a un costo di circa un miliardo di dollari per Goldman e un'erogazione quindi di un miliardo di dollari per Fannie Mae, cosa succede? Succede che poi Goldman Sachs ha a sua volta dei crediti fiscali importanti ed è una banca nell'occhio del ciclone, si dice che sia stata favorita, e quindi il fatto che così Goldman Sachs riesca di nuovo a creare una spigolatura su un'azienda che è stata salvata con denaro pubblico crea un forte imbarazzo al Tesoro americano. Quindi oggi il problema che noi stiamo vedendo, nel momento in cui sembrava che tutto fosse risolto, ci stiamo accorgendo che invece il Tesoro americano ha una serie di problematiche che stanno continuando ad emergere. La settimana scorsa c'è stato il problema della GMIC, la finanziaria, la divisione finanziaria della General Motors, che ormai è separata, che di nuovo ha avuto bisogno di circa 5 miliardi di dollari per tenersi a galla. E quindi qualcuno un po' si domanda che cos'altro succederà. Quindi oggi veramente c'è più che l'attenzione sulla CIT, che tutti si augurano alla fine possa riemergere da questa situazione, c'è molto l'attenzione sulle sfide nuove, su questa nuova fase che si apre davanti al Tesoro americano. Ecco, e di questo infatti vorrei parlare con te. Tu hai chiesto molto bene che il motivo per cui viene messa in amministrazione controllata è per poi risanarla e permettere poi di arrivare anche a una soluzione su questi debiti. È chiaro che, se lo dico chi scrive al 349-238-6666, se hai 30 miliardi di debiti e devi ridurne almeno 10 miliardi, qualcuno dei tuoi creditori non beccherà i soldi, a partire, come ricordava Mario Pratero, dal governo americano. Cioè, l'amministrazione controllata serve appunto a mettere a riparo, come da noi, se non ricordo male, la legge Prodi, provato a memoria, che usammo ai tempi della Cirio, serve a mettere a riparo dalle richieste, dai debiti che tu hai contratto, cioè vengono congelati e bloccati. Poi è chiaro che se devi levare 10 miliardi non li potrai nemmeno ridare, qualcuno che te li ha prestati questi soldi non li vedrà una minima parte. Ma passiamo al secondo aspetto, Mario Pratero. Tu dicevi, in questo momento l'attenzione è più concentrata su possibili altri rischi. Noi abbiamo visto in questi mesi i grandi gruppi americani bancari, quasi tutti, tranne in questo caso Citigroup, avere utili, nel caso di Goldman Sachs, utili stellari, ma insomma utili, macinare utili, utili fatti spesso con le vendite dei titoli, e va bene. Però tu scrivevi lo scorso 31 ottobre di un rischio anche sui debiti del private equity, cioè quelle società che mettono i soldi per comprare o entrare come soci spesso di maggioranza in altre aziende, che ammonterebbero a 1.000 miliardi di dollari in scadenza nei prossimi 3-4 anni. E per di più, Sole 24 Ore, sempre del 31 ottobre, riportava anche un'analisi di Mario Margiocco in cui si diceva: attenzione, ci sono altri due tipi di mutui in America più pregiati, quindi di qualità un po' migliore rispetto ai subprime, ai famigerati subprime, che però si chiamano Alt-A e Option Arm, valgono 1.400 miliardi e siccome sono un po' migliori ma non così buoni, potrebbero generare fino a 700 miliardi di insolvenze. Mario. Sì, è la nuova mina vagante, e ti dirò che, tornando al contesto micro, se vogliamo, proprio sul private equity abbiamo cominciato a vedere la settimana scorsa, nei giorni scorsi, tra giovedì e venerdì, dei segnali piuttosto preoccupanti. Comincio con Blackstone Group. Blackstone Group si è indebitata per 20 miliardi di dollari per acquistare la catena degli alberghi Hilton. Ricordo l'operazione, fu una delle più grandi operazioni della storia, e un'operazione che mi lasciò molto perplesso a suo tempo, perché avveniva nel 2007, avveniva a cavallo del marzo del 2007, quando la situazione già cominciava a essere, come dire, vagamente tesa sui mercati, proprio perché i subprime cominciavano a registrare difficoltà. E quindi mi colpì che ci fossero importanti gruppi che così fossero pronti a investire sul mercato immobiliare pagando i prezzi massimi. Ebbene, Blackstone Group ha annunciato l'altro giorno che non sarà in grado di ripagare subito questi 20 miliardi di dollari, che a un certo punto poi andranno anche in scadenza, e ti dirò di più, ha chiesto una rinegoziazione di questo debito di 20 miliardi di dollari, lasciando intendere che 5 miliardi di dollari non li pagherà. E quindi ci saranno detentori di obbligazioni, ci saranno banche soprattutto che hanno concesso questi prestiti, che si ritroveranno di nuovo col cerino in mano. In questo caso si parla di 5 miliardi di dollari, ma ci si domanda poi anche quanto del resto dei 15 miliardi che restano poi Blackstone sarà in grado di ripagare. Perché? Beh, perché non solo i prezzi immobiliari, del valore immobiliare di queste catene di alberghi sono un po' crollati dappertutto, e quindi manca, a fronte del prestito, il collateral, la garanzia, ma perché questi alberghi, che sono in genere alberghi di lusso, ovviamente soffrono della crisi economica e quindi stanno operando in perdita e in gravi difficoltà. Un altro esempio, Spire, gruppo immobiliare molto importante a New York, che l'anno scorso ha comprato per 6 miliardi di dollari un intero quartiere nel Lower East Side, qui a Manhattan, nella parte meridionale, nella zona est della città, nella zona orientale della città, pagandolo 6 miliardi di dollari. Fu di nuovo un affare strepitoso sulla carta. Ebbene, ho i valori, sentivo qualcuno molto informato ufficiosamente, mi diceva che il valore di questo complesso immobiliare oggi probabilmente è di circa 1 miliardo di dollari, proprio perché fu strapagato e perché le condizioni di questi complessi immobiliari, che sono dei complessi con affitti bloccati, sono ormai le peggiori sul mercato. Ecco, questo per dire che cosa? Che è vero che nel corso degli anni ci sono le cifre super macro, ma ci sono già, e quindi i 1.000 miliardi di dollari per il private equity, i 1.000 miliardi per l'Alt-A, anche se sull'Alt-A credo che le qualità dell'Alt-A, dell'Alt-A, diciamo, questo mutuo immobiliare di migliore qualità del subprime, sia leggermente più sicuro, ma al di là di quello ci sono già degli elementi che vediamo sul mercato. Nella giornata in cui, come oggi, vediamo invece un ottimo dato sul settore manifatturiero. C'è stata una forte ripresa del settore manifatturiero, un po' 3,5%, il miglior dato dal 2006, ci sono dei dati positivi anche nel settore immobiliare, quindi sul fronte macro noi continuiamo a vedere la scia di quella che è stata la manovra di sostegno dell'economia col pacchetto di stimoli messo a punto dall'amministrazione. Poi quando andiamo però a vedere il contrappunto micro e quindi i prestiti che vanno ripagati, la CIT, la GMIC e così via, ci accorgiamo che ci sono ancora molte mine vaganti. E questa contraddizione che venerdì ha preoccupato il mercato, abbiamo visto una perdita del quasi il 2,5% in borsa, oggi la borsa sta un pochettino riprendendosi proprio grazie a questi dati economici, però vi segnalo anche che siamo nel momento di maggiore volatilità, credo, degli ultimi 10-12 mesi, quindi siamo in un momento molto delicato. Secondo me. Ecco, per concludere, perché poi parleremo anche dei mercati in Royal Bank of Scotland, che oggi ha perso quasi 10%, perché sembra che l'Europa la obbligherà a cedere altri asset, parleremo anche di Ford, che invece è una buona notizia, ma restando su questo tema, i mutui alta, vorrebbe dire praticamente A sta per alternative. Dentro questi mutui, Mario, ci sono anche i cosiddetti mutui ninja, dove ninja sta per no income, no jobs or asset, cioè dati a quelle persone che, in cui non si è verificato il reddito e il possesso di un posto di lavoro o attività di garanzia. So che in Italia sembra incredibile, ma in America si sono dati i mutui anche senza che vi fossero i requisiti sul posto di lavoro e sull'income e sul reddito. Vorrei capire, lì tu dici la situazione dovrebbe essere più tranquilla, e quindi sì, ci possono essere 700 miliardi di danno su 1.400, ma tutto sommato non si dovrebbe rischiare un'altra copione tipo i mutui subprime? Allora, diciamo che per il momento non è nelle carte, ma per una ragione molto semplice, perché i tassi di interesse sono straordinariamente contenuti, e perché comunque sia, è vero che ci sono stati milioni di disoccupati in America e che il tasso di interesse è al 9,8%, ma la stragrande maggioranza degli americani comunque continua a lavorare, e la qualità di questi prestiti, come ti dicevo, è una qualità superiore, resta una mina vagante, come lo resta quella dell'indebitamento generico del private equity, però in questo momento con la Federal Reserve che tiene i tassi di interesse tra lo 0 e lo 0,25%, quindi praticamente a un tasso zero, è chiaro che questo aiuta molto anche il mercato, per cui c'è gente che è pronta a intervenire e a comprare laddove una persona ha perso il posto di lavoro, non ce la fa tenere il mutuo ed è obbligata a vendere la casa. Quindi quello che vediamo anche dai dati di oggi è che il mercato immobiliare si è un pochettino rimesso in moto. È chiaro che la crisi di allora fu una crisi finanziaria, perché in questi subprime oltretutto erano stati impacchettati in dei pacchetti immobiliari su cui che erano stati poi collocati sul mercato, e quindi quella fu più una crisi finanziaria, se vuoi, che una crisi immobiliare. Oggi l'immobiliare tiene grazie a questi tassi di interesse molto bassi. Chi si trova in difficoltà ovviamente è chi ha fatto il passo più lungo della gamba e dunque si è indebitato enormemente, ma questo significa che dovrà vendere perdendo qualche cosa sul capitale, ma magari quando poi si arriverà a rinegoziare il mutuo, il nuovo acquirente a quel punto avrà delle condizioni un pochettino più serrate da parte della banca, quindi questo può essere anche un processo in cui si fa un po' di pulizia e si ricostituiscono dei portafogli più sani. I problemi veri sono sui grandi gruppi, perché non è che la catena Hilton la si colloca sul mercato dall'oggi al domani, e dunque se a un certo punto Blackstone dovesse avere un problema di liquidità legato appunto al servizio sul debito di Hilton, per le ragioni che ti dicevo prima, ecco che a quel punto il nervosismo può continuare e diciamo torna ad emergere. Sono i primi segnali in questo caso di private equity di una situazione problematica. Sul settore immobiliare i problemi veri ci saranno nel momento in cui la Fed, che si confronta col dilemma se aumentare o meno i tassi di interesse in funzione della ripresa economica, dovesse decidere di aumentarli. Allora sì che avremo un problema, perché a quel punto con tassi di interesse rialzo, i tassi di mutuo rialzo, il mercato immobiliare non avrà più quella flessibilità che in qualche modo ha recuperato oggi, e allora ecco, allora lì i nodi verranno al pettine anche sull'Altei e sugli altri prestiti di migliore qualità. Grazie a Mario Platero in collegamento con noi da New York, chiarissimo anche il ragionamento sul fatto che in questo momento un po' di gioco sui mutui non di grande qualità, anche se non così pessima come sul prime, e lo diano i tassi di interesse praticamente a zero, e quando però, come avviene anche in Italia, se hai un mutuo variabile, ripartiranno i tassi, lì qualche sofferenza potrebbe esserci. L'importante è capire sempre, come sempre, l'intensità e la proporzione, perché fino a 700 miliardi, può voler dire 7 miliardi o 700 miliardi. Grazie Mario Pratero, le informazioni meteo, la pubblicità, poi parliamo della borsa, anche partendo dal Royal Bank of Scotland, ma devo dire che la chiusura a Milano è tra le migliori in Europa, più 1,1%, FTSE All più 1,2%, l'America guadagna l'1,1%, 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. ...17:39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare tra un istante di borse. Alcuni di voi vogliono sapere come si chiama l'indice che misura i costi del trasporto marittimo. Lo usiamo ogni tanto per vedere come sta andando il commercio mondiale. Si chiama Baltic Dry Index, lo trovate su tutti, semplicemente facendo una ricerca su internet. Noi invece chiudiamo la pagina americana, ma questa volta non con una preoccupazione come quelle avviate su Citigroup, oggi fallita, e anche sui rischi su alcuni mutui e soprattutto quando ripartiranno i tassi di interesse, ma con una notizia buona. Mi riferisco a una delle tre sorelle nel mondo delle costruzioni di auto in America, Ford. Ebbene, la buona notizia è che Ford dovrebbe essere definitivamente fuori da ogni rischio bancarotta. Così sembra, visto che ha registrato nel terzo trimestre dell'anno un attivo, un utile di 997 milioni di dollari contro un rosso di 160 milioni nel terzo trimestre del 2008. Andrea Malan in collegamento con noi da Detroit, dove si è aperto il salone dell'auto. Anzi, scusami, no, in collegamento da Detroit, ma non per il salone dell'auto. Ogni tanto scattano anche in questo programma gli automatismi. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Ti stavo immaginando in un salone abbastanza vuoto a quel punto. Mancano un paio di mesi. Mancano un paio di mesi e tu non sei andato in maniera così, diciamo, preventiva. In realtà c'è qualcos'altro che capiterà e poi ne parleremo. Comunque, partiamo da Ford e poi arriviamo invece anche a Chrysler. Buon dato, mi sembra di poter dire che, insomma, oggettivamente è quella delle tre che ne è uscita meglio. General Motors ha dovuto dichiarare il Chapter 11, la Chrysler sta comprata dalla Fiat, Ford ce l'ha fatta con le sue gambe, diciamo così. Ford per ora ce l'ha fatta con le sue gambe, i dati sono molto incoraggianti. Un terzo trimestre che, ricordiamo, però è stato molto aiutato dagli incentivi alla rottamazione che ci sono stati anche negli Stati Uniti e che Ford ha sfruttato, perché è quella in condizioni finanziarie migliori e ha anche un'immagine migliore presso i consumatori. Quindi ha aumentato di oltre 2 punti percentuali la quota di mercato in America e ha chiuso in attivo anche solo con le attività americane, cosa che non accadeva da quasi 5 anni. È stata aiutata dal fatto che in Europa, nonostante il calo dei ricavi che ha coinvolto tutti, ha anche qui rosicchiato un po' di quote, perché ha dei modelli medio-piccoli che vanno molto bene, e quindi complessivamente ha potuto, oltre a chiudere in nero, ha potuto segnare anche un cash flow, quindi un flusso di cassa positivo, e aumentare la cassa che ha complessivamente a disposizione, che ricordiamo è quella che le ha permesso, grazie alla idea intelligente e fortunata di indebitarsi 3 o 4 anni fa, appena prima della crisi, quella che le ha permesso in sostanza di evitare Chapter 11, che ha invece colpito GM Chrysler. A questo punto Ford ha fatto solo una... Pronto? Sì, prego, prego, ti sentiamo. Ha lanciato solo non un allarme, ma ha detto: attenzione, 2010 potrebbe non essere così facile, proprio perché gli incentivi negli Stati Uniti sono finiti, in Europa sappiamo che in alcuni paesi sono finiti come in Germania, altri li potrebbero rinnovare, ma insomma le vendite l'anno prossimo potrebbero non andare così bene, ma ha confermato quello che hai detto tu, cioè la convinzione di essere fuori dalla crisi, dicendo che il 2011 per Ford sarà un anno solidamente profittevole. Allora, tu ricordavi giustamente che il 2011, ma è la cosa più importante, lo ha detto il numero uno di Ford, sarà un anno in cui lui si aspetta, Alan Moulay, utili molto solidi. Importante anche vedere come mai Ford è tornata inutile. E allora è tornata inutile perché è andata soltanto bene le vendite, soprattutto la parte del risultato operativo positivo in America. 357 milioni di dollari. È la prima volta che c'è un risultato operativo di carattere positivo nelle vendite di Ford negli Stati Uniti dal primo trimestre del 2005, quindi oltre 4 anni. Bene anche Sud America, con profitti balzati a 250 milioni, e il mercato europeo ha visto utili a 193 milioni di dollari. Poi ha risparmiato un miliardo con un taglio dei costi e quant'altro. In realtà questo è quello che riguarda Ford e siamo contenti. Tu non sei in attesa del salone perché mancano 2 mesi, ma sei a Detroit perché mercoledì verrà presentato proprio lì il piano di rilancio di Fiat per Chrysler. Alcuni di voi ci chiedono che fine ha fatto General Motors, magari non riusciamo a parlarne oggi, dovremmo fare un'altra puntata. Però Chrysler, allora, da quello che si è capito, il piano di Fiat per rilanciare la Chrysler accantonerebbe i progetti fuori dai confini nazionali per i marchi del gruppo, fatta eccezione per la Jeep, che resterebbe l'unico marchio internazionale. E poi ci sarebbe la parte che più interessa Sergio Marchione, il lancio di nuovi prodotti, nuovi modelli, se ho ben capito, ecologici. Andrea? Sì, diciamo che quello che appunto la ricerca da parte di Marchione di una forte integrazione e di un raggiungimento del massimo di economie possibili sulle piattaforme, oltre che appunto sui marchi. Quindi Jeep è l'unico marchio di Chrysler che è universalmente riconosciuto a livello mondiale, che ha un'ottima immagine e verrebbe mantenuto a livello internazionale. In Europa l'idea di Marchione probabilmente è che Chrysler è troppo debole, non ha una grande immagine, ha una base ridotta, tanto vale alcuni prodotti Chrysler o Dodge, pensiamo ai minivan di grande successo negli Stati Uniti, potrebbero essere venduti in Europa, sì, ma con un marchio come Lancia, per esempio. Quindi integrazione fra le due, lo stesso potrebbe valere a livello di piattaforme per le future Alfa Romeo medio e grandi, che potrebbero condividere la piattaforma con magari delle auto vendute in America come Dodge. Ecco, quindi la ricerca di economie di scala e di sinergie spinta al massimo grado. A tutto questo si aggiunge naturalmente il portare negli Stati Uniti appunto i motori più economici, più risparmiosi, che di cui la Fiat dispone già in Europa e sui quali tra l'altro anche in Europa sta lavorando parecchio con il lancio proprio quest'anno della GIA Multi-Air. Tutto questo naturalmente verrà svelato in dettaglio mercoledì, quindi quali modelli, in quali anni verranno lanciati. Quello che possiamo dire complessivamente è che si sa, e c'è grande attesa su come diciamo Marchione affronterà l'argomento, si sa che comunque gli anni più difficili saranno i prossimi due per questo piano, perché ci vuole tempo, un tempo tecnico per integrare le piattaforme, per lanciare nuovi modelli. Nel frattempo Chrysler deve competere con la gamma che ha, che non è amplissima, e quindi diciamo il 2010 anche nel caso di Chrysler sarà forse l'anno più difficile. I primi modelli basati su piattaforme Fiat e con motori Fiat dovrebbero arrivare nel 2011. E poi vedremo appunto mercoledì 4 novembre l'annuncio vero e proprio del piano complessivo. Grazie intanto ad Andrea Malani in collegamento con Detroit, le informazioni per chi è in viaggio, e poi la borsa 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. ...17.48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa oggi, dopo la correzione e insomma le correzioni della settimana scorsa, oggi le borse recuperano, non tutto, soprattutto Francoforte, che guadagna lo 0,2%, recupera poca cosa. Anche Parigi più 0,88%, Londra più 1%, Milano più 1,2%. L'America continua a guadagnare l'1,2% anch'essa. E allora oggi il collegamento con Radio Cori sulle 24 ore è nella persona di Eleonora Micheli. Eleonora, buonasera. Buonasera a tutti. Tra i titoli italiani segnalo Tenaris più 3,1, Telecom più 3 come Fiat, CIR più 2,2, Enel più 1,8 come Buzzi Unicem, e Finmeccanica l'1,5 lo guadagna Atlantia e anche Unicredito in pregilo, Eleni l'1,4% e l'aumento di Autogrill l'1%, quello di Luxottica, Pirelli, Monte dei Paschi. Fronte opposto, l'automatica meno 2,6, Mediolanum meno 2,5, Parmalat meno 2,1, Geox meno 1,7, Snam meno 1,1, Terna mezzo punto percentuale di calo e Campari lo 0,4%. Prima di passare ai singoli titoli vorrei però capire che cosa è successo oggi su Royal Bank of Scotland, perché il fatto che l'Europa possa chiedere a Royal Bank of Scotland di cedere asset, quindi partecipazioni più alte di quante già non prevedesse, ha fatto calare o crollare in alcuni casi il titolo. Come ha chiuso e qual è il ragionamento che fa il mercato? Sì, esattamente, dopo che è uscita la notizia le azioni sono arrivate a perdere oltre il 17%, hanno poi chiuso in calo del 7,7% attestandosi a 38,68 sterline. E, ovviamente il mercato ha reagito male alla notizia che effettivamente l'antitrust europeo obbliga l'istituto a nuove cessioni rispetto a quelle che erano già state indicate e ha punito le azioni, ma non solo, questa mattina andavano male un po' tutte le azioni bancarie europee, anche a Piazza Affari numerosi titoli erano in terreno negativo, si sono poi ripresi sul finale. Ricordo tra l'altro che il governo britannico controlla una quota del 70% di Royal Bank of Scotland. Si sono ripresi nel finale, ma come già citavamo non sono oggi loro a guidare i rialzi. Allora, Telecom Italia più 3%. Esatto, più 3%, i titoli sono rimbalzati, la scorsa settimana avevano perso punti, a infiammare le azioni è tanto l'attesa per i conti del trimestre che verranno annunciati il 5 novembre, quanto soprattutto l'attesa sull'imminente cessione della compagnia controllata tedesca Hansanet. Infatti oggi a rilanciare l'ipotesi è un giornale spagnolo, l'Economista, che ipotizza che ad acquistare la società sia Telefonica, del resto appunto Telefonica ha sempre fatto sapere di essere molto interessata all'asset e Telefonica offrirebbe una cifra tra i 900 milioni e il miliardo e il mercato ha premiato appunto Telecom perché in questo caso sarebbe la prima operazione di dismissioni tanto attesa dal mercato. Bernabé sì. Aveva annunciato infatti un pacchetto di dismissioni tra cui c'era anche Hansanet. Allora, Fiat attese sulle matricolazioni, ma bene, sono andate in Francia, più 3%, io immagino che il mercato si attenda un buon dato, uscirà fra 8 minuti, i dati sono assolutamente segreti, ufficialmente, però magari qualcuno li ha avuti un po' prima, non lo so, o scommette comunque che Fiat avrà un buon dato dalle matricolazioni che escono fra pochi minuti. Enel, qui c'è anche un articolo del Sole 24 Ore, più 1,8% sopra i 4 euro per azione. Esatto, Enel, diciamo a riaccendere i riflettori su Enel è stata proprio la lettera all'investitore del Sole 24 Ore pubblicata ieri. Secondo il quotidiano, infatti, la società elettrica si appresta a chiudere il 2009 con un EBITDA attorno a 15,15 miliardi in crescita rispetto ai 14,3 miliardi del 2008. L'EBITDA continuerebbe a crescere inoltre anche nel 2010 attestandosi attorno ai 16 miliardi, con un debito che quest'anno sarà in crescita, ma ricordiamo che Enel ha acquistato Endesa, sarà in crescita a 53 miliardi, ma già dal 2010 scenderà a 45 miliardi. Questi numeri sono stati apprezzati dagli analisti, anche se per adesso si tratta di ipotesi e indicazioni contenute nella lettera all'investitore e hanno fatto comunque salire le azioni, come hai detto tu, dell'1,85%. Allora, altri titoli migliori e peggiori, qui andiamo leggermente, di conflitto di interesse, comunque Ratti più 24%, Yorkville più 9,9%, non mi chiedete cos'è, ma ammetto tutta la mia ignoranza, non conosco tutti i titoli del listino, Risanamento più 6,5%, Piaggio più 6,3% e Sole 24 Ore più 6,3% a 2,2 euro per azione. Risanamento e Sole, visto che sono i tre migliori. Sì, sono ovviamente rimbalzi, comunque sul risanamento c'è soprattutto l'attesa per l'assemblea in prima convocazione del 16 novembre, in seconda convocazione del 30 novembre dove verrà nominato il nuovo CDA. Intanto nel fine settimana è stata presentata la lista dei candidati. Sul risanamento comunque c'è anche l'attesa per il per il giudizio che esprimerà il Tribunale fallimentare di Milano sul piano di salvataggio della società, e evidentemente Piazza Affari scommette che il giudizio sia positivo. Quindi inutile nascondersi dietro un dito, nomine nuove di nuovi amministratori delegati non sono motivo di movimento in borsa? Probabilmente sì, ovviamente ci sarà un rimescolamento delle carte. Abbiamo visto in base alle indiscrezioni che l'amministratore delegato del Sole 24 Ore appunto prenderà posto nel consiglio di amministrazione di risanamento, anche se questo spetterà all'assemblea. Certo, ci mancherebbe, sono solo indiscrezioni, però noi commentiamo anche questi nei titoli di borsa, tutti i titoli senza nessuna distinzione. Ancora tra i peggiori Vivendi meno 5,5, IVU Bank meno 4,3, EMS meno 5%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore. Adesso il GR, poi dati flash sulle immatricolazioni di auto in Europa e questa strisciante guerra tra Svizzera e Italia. Focus Economia. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, come avete sentito dal nostro GR, sono usciti i dati sulle immatricolazioni di auto e, come d'attesa, come anche questa mattina in Francia, molto buona l'immatricolazione in Italia nel mese di ottobre, più di 15,7% in media, con Fiat in linea con il dato, più 15% per il gruppo. E ancora la quota Fiat sale al 32,5% contro praticamente un 32%, c'è un leggero calo, scusatemi, rispetto al 32,7% di un anno fa. E a livello invece dei primi 10 mesi la quota del gruppo Fiat, come tutti i marchi, sale al 33% contro il 31,9% dello stesso periodo del 2008. Noi però, come promesso, ci occupiamo di questa tensione che resta altissima tra l'Italia e Svizzera in materia fiscale dopo le perquisizioni dell'Agenzia delle Entrate nelle filiali italiane degli istituti elvetici e la convocazione da parte di Berna dell'ambasciatore italiano e appunto con le rimostranze del governo svizzero, e restano alte le tensioni tra i due paesi. Gli elementi di attrito, diciamo, sono diversi in questo momento: l'euro ritenuta, la modalità di applicazione dello scudo fiscale, la doppia imposizione, ne parleremo adesso nel corso dell'intervista. Sull'ultimo aspetto, la Svizzera ha interrotto i negoziati con il nostro paese avviati per integrare le modalità di scambio di informazioni in base ai nuovi standard OCSE. La doppia imposizione sono quelle convenzioni che dovrebbero impedire la doppia imposizione, cioè accordi internazionali tributari per evitare che un soggetto venga tassato due volte, cioè se risiede in un paese ma produce reddito in un altro. Insomma, tensione molto alta, e a noi è venuto in mente un suggerimento per risolvere i problemi con i problemi dell'economia italiana. Adesso lo mettiamo anche leggermente sul ridere, suggerimento che arrivava nel 1983 da Roberto Benigni: come risolvere i problemi del debito e dell'economia italiana. Risoluzione dell'economia italiana, ci avrei il piano. Risolvere l'economia italiana con la conquista della Svizzera. Questo sarebbe. Ci hanno portato miliardi, tutti i soldi nostri. No, vorrei questo. Assuefazione della demagogia. Oramai li danno proprio al primo svizzero che incontrano, che sono di Zurigo. Mi registri 2 o 3 miliardi, ci abbiamo in tasca. Se proprio appena trovano uno svizzero, bisogna andarci entro l'uno e mezzo perché chiudono la Svizzera. A parte il dialogo con lo svizzero, non è troppo. Ci hanno 4-5 argomenti, si sa, no? Voglio dire, banalmente, ci hanno le banche, appunto, il latte, la cioccolata, l'orologio, bravo, l'orologio, Guglielmo Tell, qualche volta, no? si incontrano due svizzeri, dice, buongiorno, dove vai? Andavo in banca, ho lasciato la cioccolata, vado a prendere un po' di latte. Che ore sono? Ho qui l'orologio, ma mi si è caduto il latte e non si legge niente. Ha preso la cioccolata, sì, mi si è bagato dentro, piglia il latte di disintossico. Ho preso ora, mi è caduto l'orologio, che ore sono? Ho preso l'orologio, mi cucina in banca, ora vado in latteria. No, non banca l'orologio, piglia l'orologio in banca, la latteria lasciala di là. Piglia la mucca, lasciala la latteria, c'è l'orologio in banca con la cioccolata. L'orologio è la cioccolata, sì, c'è il latte e l'orologio, il latte e l'orologio. No, la cioccolata è l'orologio. Dio, ma allora piglio un po' l'orologio alla mucca, non ce n'è mica. Le mucche ogni orologio lo lasciai in banca. Piglia la mucca della banca, guarda che ore sono. Ho preso l'orologio ora, ho preso la cioccolata e il latte. Ah, ovvio, un albergo, ci si vede. Stanno te? Sì, io te, Guglielmo te. Sì, ciao, si vede, arrivederci, ciao. E vabbè, insomma, chiaramente dobbiamo messi a ridere, però invadiamo la Svizzera per risolvere i problemi dei conti italiani. In realtà le tensioni ci sono tutte. E allora direi, per affrontare l'argomento invece in questo caso in maniera seria, ma cercando di capire le ragioni della Svizzera, ma anche le ragioni del fisco italiano, direi di anticipare di un minuto le informazioni per chi è in viaggio e poi ne parleremo con il direttore dell'associazione bancaria ticinese, Franco Citterio, che è già in collegamento. Le informazioni sul traffico prima di tutto, 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, tensione tra Svizzera e Italia, non solo per lo scudo fiscale, ma anche per lo scudo fiscale. Dottor Franco Citterio, direttore Associazione Bancaria Ticinese, buonasera. Buonasera. Allora, per far capire a tutti, il punto dello scontro hanno riguardato le perquisizioni di martedì scorso, in cui la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno perquisito in Italia 76 filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari elvetici o situati nei pressi di San Marino. Poi ancora a breve, ha detto l'agenzia, arriveranno altri accertamenti. La Svizzera però già martedì scorso ha dichiarato l'operazione come discriminatoria. Poi arriveremo anche alla parte dello scudo fiscale. Ma perché c'è tutta questa tensione tra Svizzera e Italia, che fa dire al presidente del governo ticinese Gendotti, addirittura la reazione di Berna è stata tardiva, bisognava interrompere prima gli accordi, diciamo, la trattativa per l'accordo sulla doppia imposizione? Ma probabilmente proprio perché questa che noi definiamo un po' come una disinformazione ad opera del governo italiano tramite i mass media risale già da alcuni mesi fa. Non dimentichiamoci che da marzo, quando il governo svizzero ha annunciato una maggiore collaborazione nell'assistenza amministrativa tra stati, da aprile in pratica si leggeva sulla stampa italiana: il segreto bancario svizzero non esiste, la piazza finanziaria è destinata a scomparire, e in un crescendo poi di temi si è arrivati in pratica al culmine dei controlli doganali alla frontiera e dei blitz presso le banche svizzere in Italia. Dunque un'escalation di terrorismo informativo, come oserei definirlo, che da noi era stato già evidentemente segnalato all'autorità cantonale già nei primi mesi dell'amnistia. Poi c'è stata una reazione anche da parte di Berna, un po' tardiva, proprio perché probabilmente i nostri colleghi della Svizzera tedesca sono meno vicini alle problematiche che ci legano all'Italia e quindi hanno reagito forse un po' in ritardo. Però non da meno crediamo che in questo momento adesso ci sia la massima attenzione su questa comunque problematica, sì, che mi sembra abbastanza concreta. Dottor Citterio, io mi scusi, però non capisco. Il governo italiano ha fatto delle ispezioni in filiali di banche svizzere in Italia per accertare se vi fossero dei reati o finanziari, o comunque una collusione con reati finanziari. Ha detto che ne farà altri su altri istituti. Tra l'altro c'è anche uno scontro in corso con la Repubblica di San Marino, sempre nella logica di questa lotta, tra virgolette, a non tanto paradisi fiscali, ma a stati, come ha ricordato Mario Draghi la scorsa settimana, diciamo, non cooperativi dal punto di vista fiscale, perché non ci sono solo i paradisi intesi come Cayman o altri luoghi ameni. Però, dico, cioè, alla fine di che cosa... Non è che la Svizzera sia irritata perché teme che molti soldi escano dalla Svizzera con lo scudo fiscale, cioè che dovendo essere poi vi arriveremo dichiarati, rimpatriati perlomeno giuridicamente in Italia? Ma questo è quello che auguro all'Italia, che questa manovra serva effettivamente a far rientrare dei soldi. Di fatto il fenomeno dell'evasione è una realtà consolidata da vari anni e non credo che nemmeno questi metodi contribuiranno a risolvere il problema. Problema che rimane, credo, comunque quello di un sistema fiscale che non funziona, cioè non c'è una fiducia da parte del contribuente italiano. Potrei dirle che se il nostro sistema fiscale funzionasse non arriverebbero tanti soldi in Svizzera da parte italiana, ecco, perché tutto sommato a voi quasi quasi vi conviene che non funzioni. Infatti non mi lamento di questa realtà, però capisce scaricare su altri la responsabilità di questa situazione non mi sembra il caso. Continuamente definire la Svizzera un paradiso fiscale quando il nostro paese ha, oltre ad avere evidentemente un sistema assolutamente completo di tassazione di persone fisiche e giuridiche che colpisce svizzeri e stranieri residenti e dunque non da equiparare a isole caraibiche o del Pacifico, è un sistema che ha anche allargato per i paesi che evidentemente vorranno stabilire una nuova convenzione contro la doppia imposizione, stabilisce anche maggior collaborazione in ambito di frode e di evasione fiscale, per cui da parte nostra c'è collaborazione, non capiamo perché l'Italia continua a ostinarsi a rimanere su queste posizioni molto, sì, molto critiche verso la Svizzera. Allora, sì, che la Svizzera, diciamo, paradiso fiscale non in senso stretto, però insomma l'Europa è da 10 anni che fa una trattativa abbastanza lunga con la Svizzera per avere maggiore trasparenza sulle informazioni dei correntisti europei in Svizzera. Non è adesso, con tutto il bene che posso dare agli svizzeri, non è che il vostro primo atteggiamento è stato così cooperativo fin dall'inizio. Gli Stati Uniti d'America hanno dovuto minacciare ritorsioni gravissime per la lista dei correntisti americani di UBS, perché il fisco americano aveva minacciato l'America di chiudere le filiali di UBS in America. Questo si è dovuto arrivare per avere delle informazioni. Per cui, dottor Citterio, con tutto il bene che voglio il sistema bancario svizzero, non mi dica che proprio voi avete queste informazioni che date in ogni modo. Ma detto questo, non capisco l'irritazione, cioè se lo Stato italiano per esempio mette le telecamere alle frontiere per schedare chi esce o entra verso il confine, abbiamo visto che a Chiasso il sindaco ha chiesto ai cittadini di denunciare possibili poliziotti italiani in borghese che sono lì appunto per prendere nota delle targhe. Allora, voglio dire, se lo Stato italiano mette delle telecamere o attua delle politiche di contrasto a chi porta i soldi fuori, sta facendo un'operazione così legalmente ineccepibile, vuole evitare che vengano portati i soldi in Svizzera, o no? Ma sai, nessuno contesta il fatto che siano legali, anche i controlli presso le banche svizzere sono perfettamente legali, quello che ci si domande se sono veramente dei metodi che porteranno qualcosa a voi, nel vostro interesse, non certo nel nostro. Però per tornare alla questione Svizzera scambio di informazioni, sì, la nostra specifica importante è quella significa uno scambio di informazioni non automatico. Quello che chiede l'Italia anche l'Unione Europea è che ci sia uno scambio automatico di informazioni. Questo l'abbiamo detto, ma non ieri, l'abbiamo detto già nel 2005 quando c'è stato l'accordo sull'euro ritenuta e evidentemente ancora negli anni prima. Non c'è da parte svizzera nessuna intenzione, questo glielo sottolineo, nessuna intenzione di arrivare ad uno scambio automatico di informazioni. È inutile che continuate a insistere su questo punto. Quello che noi possiamo dare è un'assistenza amministrativa nei casi in cui c'è veramente caso per caso una richiesta specifica. In questi casi, sempre che con l'Italia faremo una convenzione in tal senso, potremo poi collaborare, però uno scambio di informazioni automatico è escluso perché questo non lo facciamo nemmeno nei confronti del cliente svizzero, perché esiste una protezione dei dati privati. Il segreto bancario svizzero, storico segreto bancario svizzero, va anche detto che anche qui ci sono degli elementi culturali. il segreto bancario svizzero fu quello che venne tutelato anche nei confronti della Germania nazista, nei confronti di cittadini tedeschi e anche nei confronti di altri momenti, per cui su questo la Svizzera, diciamo, mantiene anche una posizione culturale e storica come, diciamo, idea e valore del segreto bancario, e va benissimo, nel senso che ogni paese è libero di fare quello che vuole. Dopodiché non mi dite però che la Svizzera è così pronta sempre a cooperare. Comunque, venendo all'ultimo punto che ho per lei e nel suo ruolo appunto di direttore dell'associazione bancaria ticinese, come sta andando questo scudo? Cioè, per quello che lei vede, quindi come così, valutazione soggettiva, c'è molta richiesta, avete molte richieste, oppure sono più che altro informazioni su cosa fare ma ancora non decisioni operative? Dunque, allora io direi questo, anche se di dati e di previsioni non ne facciamo. Il 15 di settembre, all'inizio dell'amnistia, c'è stato sicuramente un qualche movimento da parte di, diciamo, di clientela di piccolo taglio che aveva delle impellenti necessità in azienda o in famiglia in Italia, per cui abbiamo registrato diversi di questi movimenti. Poi, proprio in attesa tra l'altro dell'emendamento importante che c'è stato a fine settembre e della circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 di ottobre, nulla, adesso notiamo un'impennata delle richieste di informazioni, per ora pochi movimenti, per cui fino a questo punto direi non abbiamo registrato un avvio consistente dell'amnistia fiscale. Evidentemente è prematuro, perché l'abbiamo già vissuto nel 2001 e nel 2003, e nelle ultime settimane che la clientela prende delle decisioni, anche perché potrebbe sempre cambiare qualcosa sia a livello normativo o nel clima politico italiano, per cui si aspetta per non magari avere sorprese all'ultimo momento. Per ora, come detto, movimenti all'inizio e poi clienti la firma, però prevediamo evidentemente un'escalation nelle ultime settimane. Un'ultima domanda, per quello che riguarda l'euro ritenuto, ossia quella tassa del 20% sugli interessi da capitale, che è frutto di un accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera del 2005 e si applica sui redditi finanziari dei non residenti. È un'imposta alternativa allo scambio di informazioni fiscali, per cui uno probabilmente conviene anche pagarla. Solo che l'anno scorso la Svizzera ha trasferito all'Italia 90 milioni di euro, cioè come se in Svizzera ci fossero l'equivalente di 30 miliardi di euro italiani. Secondo le stime della nostra Agenzia delle Entrate ce ne sono almeno 125, cioè quattro volte tanti. Come si può arrivare a una, cioè, a sapere chi ha ragione? Perché la Svizzera paga, cioè trasferisce tasse ritenute al conto per, come se ci fossero 30 miliardi di euro italiani depositati sui conti correnti svizzeri. L'Agenzia delle Entrate ritiene che siano almeno quattro volte tanti. Guardi, dottor Barisoni, già nel 2005, quando si è discussa questa euro ritenuta, già si sapeva che la tassazione avrebbe toccato le persone fisiche, non le giuridiche, dunque società, trust, eccetera, non erano toccate da questa tassa, e questa eccezione non l'ha voluta la Svizzera, l'ha voluta l'Unione Europea, in particolare l'Inghilterra, che voleva così difendere un po' questa forma di società che è il trust. Evidentemente la clientela ha optato per una forma societaria al fine di evitare questa tassazione. È un buco, evidentemente è un buco nell'accordo che andrà in qualche maniera affrontato. Grazie al direttore della società bancaria ticinese Franco Citterio. Chiaro quest'ultima spiegazione, dottor Citterio, per cui se c'è la possibilità di non dover dare non dover pagare questa tassa compensativa con figure giuridiche, molti italiani invece che essere personaggi fisici avranno società giuridiche. Grazie ancora da Sebastiano Barisoni, veramente tutto. A voi in ascolto l'augurio di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.